miratori per la legge. Aspetta, mi senti cosa? Eccoci qua! Stavani giocando a ritirarmi il cespugliato e da lì sono rimbambito. Cazzo, ma che ho fatto Milano? Non sappiamo neanche come l'abbia rubato, roba la manicomio. Ma se mi stava più in cacuzzolo si l'abbia escluso. Non te lo ho capito, Maria. E ti sto dicendo, sto diventando proprio... Cazzo, hai ci baccalizzai, cazzo, guarda. Sono arruinati tutti questi giovani, sono arruinati tutto. No, chi sono l'anziano, chi sono rimbambito, chi sono giovane, ma dica che l'ha già fatto un casino, ma a bozze, la giudica invece la bigliette del baroguro, e a ricammini velocemente la fuggece spugliatore che vira un anno, cazzo, tre volte che faccio, non hai mai tempo, cazzo va a pigliare la baroguro. Ha detto cammina a ricammini la fuggece spugliatore, chi sarà la capello del posizio vecchia, che va. So dove c'era Aroni, proprio lì dentro, adesso c'hanno il negozio lì e l'officina. Cazzo, ha ribigliato il cespugliato e mi ha detto di zicare io, e dopo sappiamo, cazzo, si era via tra lì e ha detto, mi non ruggi i gamboni, mi dice il mio, cazzo, ti la ribolti no, cazzo, me lo fai. E non me l'hai fatto, ma hai detto a Vignucci, cazzo, ma parlo con mi sembrere, ti credi che era che il canto è nel tuo regno, no, che? Ma che presidente che travaglia, cosa cazzo ti credi, che era che il rabbioso quanto si venne giù, ma chi s'anziano? Cazzo, la disturbo del cespugliatore che mi ne dà cura, e lui mi passa con il vaso del cespugliatore, se no te la regola i carabini. No, così è, ti hai fatto bene, non ti hai giusto già, e bisogna fare come ti hai giusto io. Cazzo, e proprio me l'ha fatto a farmi. E ti so che gente, ma non so cosa niente, ma prima non era così, Prima non era così, la babbo, che subito si vede che le figlie di Rubizio la parte dei giovani. Boh, però strano, Strano. E a pensare lo figliolo che si giovano. Lo figlio di Mariani, io ho capito di Mariani, non chi su che è dentro così, chi è proprio la piscina. Cazzo, chi su, in 3-4-8 mi ha portato a Portugato la luce sfogliatore, per avere la cosa di lì, cazzo, la via. Ma vabbè, la boccia rossa non si ricorda a portare, vedo. Ma infatti, lo devi avviare a babbo, ma a babbo, cosa capisci? Io non fa improvvisare i chibi, dice, a chi so, è tutto roba verdi, e così che gli si ha ragione, e allora non ha tutti niente mancare babbo, che lo babbo è quello che dice, ma amico mio, capito? Ma chi sono anziano, io per non so che c'è il babbo, è tutto rincoglionito, ma ha detto lo figlio, e cosa faccio? Uno mi ha fatto la sua figlio, e poi non gliel'ha fatto, e mi ha già pensato che ha fatto, scusa, e che cazzo di buono ti devo pagare, se non gli ha fatto un cazzo, non lo capisco, non solo, mi devi dare anche l'altro del cespugliatore che ce l'ha 21 anno, e non l'ha mai fatto, non l'avete mai fatto un cazzo, che cazzo di buono ti devo dare. Pagare. E la ha fatto così, no, cosa cazzo vuol dire? Allora voi cucciti, vedete voi tutti i clienti, scusa, cazzo, ma di nome vi vedete, l'ho fatto da voi, perché mi hanno assicurato che siete bravi, cazzo, e per me vedo questo del genere, io devo avere un anno. Chissà cazzo, ho l'intenzione di chi tu dovevi avvare. Cazzo, hai capito che a me mi serve che devo lavorare. Cazzo, cosa cazzo devo fare? Mi devo occupare altro del cespugliato. Cazzo, non ho capito, no, guarda, scusa, cioè, scusa, non ho mai fatto così, rincoglioni, tu non sa mentare più nulla. Cazzo, non ho capito, da mercoledì c'è l'acqua. Mi ci rubate lui, basta e mi dai bruata, che tanto non avete fatto. Dice, guarda, se me lo lasci, mi impegno io, già lo faccio io, lasciami il numero di telefono, lunedì mattina già ti chiamo io. E vi raggio la razza. Palluni, non si ammette a andare in bosso. Anche ti ricordi così, No, e io quando me l'avevo passato mi hanno scritto un nome per cui era un nome di Cristo, capito? Però ha detto, vedi come io, grazie di essere con noi, si fa un manubri come tra la bicicletta mia. Gli altri sono altri, poi è già riconoscibile, poi per il nome segnato pure, in mano. Certo, e poi ha fatto uscire la voce, non riusciva a ciapparlo. E se era imbussato della via. E lo mette che ho fatto un cavallo e mi ha portato a posto l'altro giovane. Cazzo, fatti rimanere, un cavallo per il lupo, in pure a pulire, in luce spugliato il lupo, ma che ci sono macchi? Ma non c'è una percentuale di tanti mariani, ma poi mi vuole il lupo. E oggi mi sbatto sento io tutto e tu, e l'ho fatto ma con rodaggio mio, ancora in garanzia, che ti narregono i documenti subito ai nomi. E ci hanno venuto bene, non ci hanno i carabinieri. Ma c'è la giudizio, scusa, cazzo, c'è scritto qua il nome, mi ha detto mettilo lì che stasera, se ci ho detto lo guardo, se no già lo guardo domani. Ecco, però ti appoggiato chi vi dà l'altro, non mi ha detto, cazzo, vabbè che dà, se il cane che ci sarà dall'officina, andare là che tu, dall'ufficio, cazzo, e che tu, signore, ma che cosa vuoi da me, se l'hai preso tu l'impegno, il lavoro che devi fare, ci usano il busto. Cazzo, mi glielo ti faccio scusa, cazzo, cosa senti? Una contro una confusione e l'altra confusione, non hanno compreso i nostri, cazzo, ma che cazzo la piccina è questa? Cazzo, e poi, allora, ma sei tu perché non lo dovevi dire a lui? Scusa, cazzo, mi è venuto incontro quando me l'ha visto in mano, il primo, che ha messo bocca, di cosa va via, e cazzo, tu, che cazzo ne so, cosa mi ha buttato, guarda. E la gente passa così mi dice, mettimelo qui già te lo guardo, domani te lo guardo e vieni su a parte mattina. Che già è fatto? Cazzo non l'ha mai così ricato, non solo. Se la lappa di mezzo che ci muti la giù vai vivi, cazzo, non ho capito che non sa manco i G, cazzo non lo vede le nocchi cambulino. Cazzo, ma adesso come dice, poi non vedi niente, tutti sono quei carri di cazzo. E prendi di capo come sta di cazzo. Ma va bene che un abisso si arrasuta, che il cazzo non va da nessuno. Non è occupare a fare la cosa, è poco caro, e a vedere se dice sugli attori. Lo più barato 240 euro, da 26, una bicicletta. Chi su da 35, 465, altri di che macco, Ehi, come sta facendo a me allora? A me mi ha facendo così, ma te si, 400 euro oggi pagato, vicino. E da voi, cazzo. Marco, quindi si dica, cazzo, e si è facciata la pressione. Cazzo, per abbia un mese, per abbia, cazzo, e non lo vuole mai cacciapani. Beh, c'è padre che non è arrivato, ci abbiamo ordinato, ci è ancora arrivare. Da voi una sanghita su cui dovrò andare e dice mi l'abbiamo messo a posto. Cazzo, se vai a capare un bobo, fate un casotto che non finisce più, cazzo. Evidentemente non hanno messo la pressione giusta. Allora, la campana soffre troppo, perché prima era silenzioso, non si sentiva uguale. Ah, ma si sentite più la pressione per un motore, puoi immaginare, e mi hanno fatto lo schifo. E ha sbagliato, quasi 80 più euro ha sbagliato, ma pulisci questa pressione. Questa cosa è che lui, secondo quanto mi parla, li chiamano i carabinieri. Ve lo posso vedere, dico sì, cos'è che vuoi? Aspetta un attimo, già vengo giù, se ciò può essere per leggere i carabinieri. Se lo posso vedere, vai tu. Cazzo, è una cosa cazzo che la mappa per gli apparugli se ne andava un casino, se ne andava. Se le altre volte neanche ricevuta mi ha dato, non hai compreso. Cazzo, ci sono di là, pulite. Ma che cavolo ti hanno per andare un mazza? Male, zo. Cazzo, alla me mi fate, chi ci vecchio. Non sai cosa faccio, proprio dice mi dice, non posso, va. Però, mi la marmita, poi da che ci vedi un pezzo di cilindro e intasati chi mi sicuramente. Gli dai una pulita, questo manco. scusa è, se io l'ho portato qui da te a controllarlo, a vedere cosa cazzo c'ha, cazzo, se me lo devo fare io, cazzo, non ti lavi le mani caricate, cazzo, io l'ho portato qua a farlo tu, come lo fai io, cazzo, boh, ma che cazzo ragionamento mi serve, boh. Tu a casa si fa, tu da che anni? Chi paghi? Tu sei la ricevuta, se io ti faccio la ricevuta fai un gesto 14 e fa dire la finanza ai Ghibi e se lasciare cosa risuscita a Mariani. Ma come io non sono andato su, io sono andato con me nei buzzi, cazzo, apri la porta, roba, ma quell'altro ce l'ha più di un anno, mi, John Mario, più di un anno, però sai quanti volte mi sono combattato, tutti i volti a stare in pilare, ma se chi verrebbe e fatemelo, e lo faccio, tutte e ogni volta una cosa, se la fa, la per l'ultima volta, ho messo ma mi fa l'ennesimo della macchina, si è avviato, si è scandito la corsa, si è bucato e chi ci avvia, grazie a chi c'è entrato nel retromagazzino, le pare molto zappi, non hai compreso. E che ti mangi scuola, però no, che si comunica, ma c'è la giubizio che devo lo fare sapere, ma che c'è neune, a bello lo gioco, cazzo, a qua indici. Io, ma sono tracce di mare il cliente, sono tracce di mare il cliente. Io non voglio di niente, però io mi faccio troppe cose e non devo rifare. E allora bisogna accettarsi e a far finire qualcuno a chi, per far finire chi sorreggia da voi, per farvi città, a fare cose come si deve. Se tu mi dici una chitta, io fra una chitta vengo, però devo essere pronto. Noi tu passi il romano e ne consigliarci amico tuoi, no? Fai il romano prima dell'amico tuoi, buono. La dica se mi sento scusa, questa è la terza volta che ci vengo, sono sei volte andare a tornare che sono qui in canocchio. Cazzo, ci da voi, non avete detto, non avete gana, o chi ci ripigliate, basta va a dimmi, guarda, che per il momento non te lo posso fare, ti rubo su va a prato i chiti. Ci da voi, a me mandate a genio, ti dico la chi non mandate a genio la ricavo da un altro. Cazzo, ma che tu mi dici? Vai in giappa di mattinata, che è pronto, vai da no che cazzo, e non solo di farlo, non sai di manco le cazzo se l'hai cucciuto. Boh! Ma è a te che lo fate di solito? Ha detto che, io ripeto, è difficile qui dovrei andare, ma se vi dovrei andare che, non, che mi faccio su trovare male fatto prima, stai tranquillo che non credo che chi trovaglia lo sai che sono piccina, tu di chi? Perché da lì allora posso avere parlare ai clienti, capito? Perché sono state troppo cose che non devi fare, cazzo, cazzo che serve, a me non salto in garanzia, me l'hanno fatti pagarmi, ti puoi mangiare ancora in garanzia. Non lo devi pagare nulla, li chiamavi i carabinieri a ghiscio e non avevi visto, se in garanzia non è cazzo ti devo pagare, non ho compreso, io non pago un cazzo. No, allora tu devi pagare solamente se tu li facci tu, i dronchi, te li fai a terra e spacchi qualche cosa, chi sa andare. Però c'è danno che si crea da solo all'interno del motore, dell'acqua che si è creato da solo. Tu non devi pagare la garanzia, ma cosa cazzo vuoi? Ma io si è creato da solo, mi raggio gradio, si è fasciata la pressione solo in due pezzi, no, sono, mi sono due moli e sono due pezzi, no. No, e una per il pezzo si è fasciata e è andata a finire in mezzo all'altra e ha fasciato burrazza su te sul casotto, capito? Ti puoi immaginare? Ecco, tu lì non dovevi pagare niente, sei in garanzia, tu mi senti i disegni della garanzia, cosa cazzo dai di pagare, balle seso. Aspetta, quando mi chiama lui, che prima di tutto mi ha coraggiato la telefonata sua, che prima se mi chiama una mazzana c'è buccino. Sì, io a Londra, no, vengo, ma telefonato ci sono quelli da... Mi piace un casino di fissamento e ti piace. te lo faccio vedere io. Fatto una cosa immobiliare in Maruguro. Ha detto mica a me mi serve a lavorare, non a farmi coglioni, non hai capito. Cazzo, tu no che sei travagliando di dinare in pretendio, come tazzura, cazzo il buono. Se non l'hai fatto un cazzo, il cazzo ti devo pagare, me lo spiego. Ma non vuoi, e pure a pagare non so fare niente. Ehi, chi sta subissino con i belli costi, no che tu con i zuppi, dice è buono, io mi dico, ma che cazzo di buono, a chi cosa cazzo l'ha fatto? Mi non l'ha fatto usa, cazzo si sono qui a ritirare, non l'ha manco dedicato in mano, se non si abbia nemmeno con i gassoli, da dire a metà il suo multilaggio che va a 20 chili, che cazzo di buono ti devo pagare? Cazzo, forse qualche cosa gli ha fatto, no, è lui, è lui solo, mi dovete tornare, grazie che veramente un anno, non l'hai compresa, che tutti i volti sono venuto, cazzo, o non fai, o non l'ha fatto, o non ho avuto tempo, o è lavora, cazzo, va, prendi il barocuro se meno. Cazzo, guarda che io lunedì voglio, quello là, e questo qui, capito? No, ti vedo, non ci preoccupare, dici che ci salvo io a passare, ma la nuova glielo cercherò meglio che per farti, io lui voglio. Ci hai detto che hai visto, da questi racconti è buono, se non racconti, metti in bolso e vi la vedete in culo. E non ci vi posso vedere un ritirato in viso di bisogni voi. E avanti, la riparazione la fatti pagare a doppio. Palle, secondo quanto mi dici, ti dico, aspetti che chiamo il carabinieri, vediamo se ti devo dare quella cifra lì, cazzo giusto, ti chiamo la finanza, no? Che mi? Infatti, l'unica è la finanza, l'unica è la finanza, grazie. Che allora, ti dice che serve, avrà dei fatti fini male, bisogna fare fare uscire, ma tu, hai scittato un po', guardi, sono troppo meno imprevista, capito io, sono diventato meno imprevista. E la furadina più di altro, ti dice che serve, fatto a me, cazzo, c'è spoglia a fare uovo, capita, ancora in garanzia, poi mi devi dire gamba un gamba, ci vuole il carbo a fare uovo, c'è ancora in garanzia, ma ho fatto manco da solo il travaglio, come ti fa poi a fare da solo il travaglio, guarda, come si spiega? Eh? Cazzo, allora è passato un altro e l'altro ha dato un girato che c'è qui, c'è passato il spugliatore, ma tu ti immagini, eh? Vai, dici, ma qualcosa, dalle voci un peso, i cassetti e spugliatore vanno in città, dei chivi, cazzo, è una montagna, e se non ho la... i chivi da cosa, e chi c'ha il 30, non i bello cucina, e chi c'ha il 30, soprattutto, va a buscare il legno, se altri chivi da zucchi, beh, un rimorchio, tra motozappa, taglia erba, chi si cose, perché tratta Maria, Gini, Barrasa, un rimorchio, quindi, tutta la roba che non hai mai accolto, e la destra gli dà delle coglioni e non vi so più andate. Sai con frisa, e per tutti i gittati. E da voi infatti dicevi un pezzo di Lopirani, aspetta, dicevi un pezzo si vuole, ah dai chi mi dedicava un pezzo si vuole al duio, capito? Magari cammina un po' da invece dovrei fasciare. E io l'altra volta gli ho detto, ecco, c'è una moto troppo vecchia in campagna, per non buttarci la sarro vecchia, a voi. La giusto, ti mirazzo e ti la dati, ma poi ti capita di avere molto zappa di chi ci tieni di rubizzo. Al limite per mi appare comunque se c'è il spigliatore di soccolarenni a controllarmi, ma vabbè, allora questo ha già fatto, mi l'ha giurato, no? Aspetta, era il fasciato, lo sapevo che era un bene di là, questa la ma qualche pezzo e di lo recuperava. Cosa mi ha detto da subissimo, a me non stai da giunta, di subissimo. Ah, è già andato, è appena fatto questa moto zappa. Il cazzo, si la cosa si era venduta. Cosa? La mia voce mi ha detto che è città da, chi mi da un fratello, non so, da un nipote, in un magazzino di ghiaccio, fa pezzi. Cazzo, mi sono detto che si era pure venduta. Hai compreso? Che sente, sto bene, no, non so, un mediente, so presenti, ma chi non so prendere i travagli dei privati, guarda, non lo stanno facendo, capito? Per cui bisogna ciambare, capito? Se sono presente, io quando lascio il luogo, ma io non vado più, così via, capito? Come fai a fare sì, perché sono ladri, e poi capito, tu favore, capito? E invece quando arrivi, chi ha da poco da voi si fa scegliere d'ora, capito? Che? No, ma ti magari ne capa un pezzo buono, se vuoi un pezzo male, capito? E beh, sono stato in suo travaglio, padre. Ehi, ma se posso vedere l'unico video di chiuso, la so, è tutto che la ragazza ha burulato questo spogliatore e me lo controlla, per questo mi devi dare sotto, gli dico no, io se per quello non chiedo niente, se li fai dare da lui sotto, perché ci ha venduto la vostra zappa, cazzo di tu, che già si arrangiava, mi cazzava pure di lì la paviccio, no? E adesso chiamo i carabinieri e vediamo come cazzo ne la alziamo qua. No, ho capito, così gli dico ballarlo. Fai bene, grazie, fai bene. E con Chiccio, che non mi avete dato mai ricevuto, andate a regalare noi. E da oggi poi voi l'ha ricevuto a burro, è la cosa fatta. Poi vedete cosa di Giambetta che a Luce Spogliatore. Ti viene dei specificami, ma sei chiaro a tutto, capito? Ehi, io gli dico, ora la regalato, ma vedete, se tu l'hai butto, realmente chissà cosa gli mise di te, gli mise di la butto, visto la butto. Se tu non l'hai chiamato chissà cosa, è di gioco di non siete. A chi cazzo va, per la parola che andate da a un casino di volta è bello. Beh, l'hai detto che... Troppo cose so bene che non devi fare, capito? Troppo, e allora bisogna scitarlo un po' che sai. Sì, chi si gioca specialmente, mi si gioca la faccia di cannau, gatto. Dai da quanto lo padrono, capito? E da quanto lo padrono. Ma che se no non aveva fatto il subito che ha fatto a me, capito? Gatta, e mi ha detto che era quando era l'uovo. Invece basta fare il figlio proprio di Mariani. E la dice che giovane mi può guardare un caso e non li può politica ancora in garanzia. Ah beh già, guardo con un giro che c'è qui c'è fatto un cio spogliatore, ma tu te li immaginetti? Ehi, sono lotti, a me mi sa che i subissini ribessi fuori, da poi se si ribussa la qua ci rivende, si fa delle travagli c'è con tu Giulio, l'hai compito. Però so che i subissini è un bell'occhio. Ma tu posso essere l'unico che le posso dire a Eddie. Allora vedi, perché lì adesso, quando mi dice lui, non ci andrò mai più, ma ne manca a comprare una auto che è caro che la palla. Ma caro me. Dai Piero, ya. È caro sì. No, ma ti so che vengo. Mi pare che la bici un inoghi, i rabuti punti, parenti pure, mi pare che perché se ne uri chi ti racconta c'è spogliatori pure, capito? Ecco per pure o chi si racconta proprio o chi si rabuti punti, capito? Che dici che sono ben bravi sono. Già lo so, ce n'è una rabuti punti perché ne avevo portato un secondo, capito? Zuzzara. Allora, la vera doveva brucio sanno alle punte. Lo trattiene una via lunga, buono, un treno, ma un 35, ma buon avvio. La via gli ha trattenuto un 2 anni, buonissimo. Fare il suo capolano di miei cognati, un biglietto, cazzo mi facciano del cespugliatore. Ma lui, rubiglio, e non pace. Cazzo. Cosa cazzo vuole che c'è il spogliatore? No, perché l'ultima volta l'ha trattato Battista lì. Sul telefono gli ho rivolto, ma come si vuole non fare che c'è il spogliatore? Poi occupano un gioco gentilato che lui la funzione e ne l'ha già appoggiato di là e non di un cazzo. Ha fatto una cosa, mi dai a ragazzo dei cani, un pezzo fatto e l'ha subito senza fa, cazzo non ti imbarri, non ti nuda, amico, c'è, cucini, niente. Si deve vedere che l'hai crubato, e non se ne ha fottuto un caso, se l'ha lavato le mani, ma io ce lo bisogna fare in campagna, anche hai fatto rullare, vabbè, avanti la borsa a cruzzare, ma poi ci vedo tante rette e già ti la paghi giù. A dove è andato il sorrato? Beh, andò da Benuccio a Sanna, ho già recuperato. E allora, cioè, me lo controlla, dopo due giorni, sono andato che mi va di... Grazie a... Tira con il motore, e là appunto. Dammi il cerculiato. Se vuoi te la ghiccio, lo faccio bigliato assai... credo, ma non ci ho creduto. L'ho portato anche da quello della Bugibuzzi. E mi ha detto subito la Bugibuzzi, la Bugibuzzi, l'ha detto, l'ha mai detto, io che faccio il motore, con il motore in lupo, tanto vale di recuperare il giro. Ecco perché lo faccio a guardare. La gente, se non vi non mi bigliava, a vanno, di gambe zuzza, e la gente, allora, se mi devi dire, che il motore, Sì, grazie, inutile, c'è poco da fare. Oh, è un macello veramente, per carità. Ma infatti mi posso dire che l'ho trovato su, se non posso arrivare alla Budibuzzi, avrei trovato come si dice pure. Oppure la vissuta della Gonza, perché sono più onesti chi sai, Mariane, chi sono ladri. Ma finiti si vede la faccia mia, l'unico esatto, più tanto, venuto qui io. Vabbè, va. Hai compreso, dopo chi c'è animale, è stato più di un anno che non si è fatto più, non vi parlava neanche da pagliati, era gente che parlava a fargli un casino. Io avrei di quattro, ma se c'è un casino in casa sua. Hai compreso? E chi ci mi ha arruinato? Con chi su tre? A chi l'ha trattato? Due e due chi stavamo ultimamente? Cazzo, l'ha crepato questo, cosa ha fatto in sopra? Si ingolfa, chi ti mette? Ma mette molto? Sì che mette molto, solo che a lei fanno i padri con i cuchi. Si appoggia, parlano la taglia, c'è troppo questo, cosa cazzo fare chi c'ha poca? Cosa ne so cosa cazzo va? Se non lo sapete voi la consente, voi lo sapete, no? Cazzo, ma ti capocani la marmitta che ci vede un pezzo di biscotto. Scusa, se te l'ho portato qui a aggiustarmelo, tu cazzo me lo porti tanto male, sto ti la riga per me lo dimontavo io tutti in campagna. Così sa, c'è nuova cazzo, ti mostro il depilatore a Gonzalo invece ti dici a fare il suo trovaglio a contarti il duca, boh, stavo piatto il muro. Mi domacco, dopo mi domacco, e poi glielo sto dando così al buono, ma che cazzo di buono, perché cosa cazzo gli ha fatto? Ma cosa cazzo gli dici? Dai. Aspetta, forse c'è qualcuno per entrare avanti? No, c'era una sua promozione poc'anzi. Che un macello, grazie, un macello veramente. E ho povera da nessuno di questa cosa, no? Oia, pacari dai, che. Ma. Gli altri villaggi lui, uno è ancora nuovo nuovo, che so che sei, ha già pagato un poco e funziona, dite che tu hai già pagato un caro, che ha fuori garanzia se mi guasto, due posti, non una volta, due posti, siamo palamazzi, che sono truffatori di chissà niente, non esistono, grazie, sono truffendi e sono guadagnati un benzina a chi sono furenti, ti vuole le cose, non devi ribollire. E allora, infatti, chi c'è che tu pagano l'affitto di libri, unirà a Roni, che c'è un magazzino, cazzo, di tirare li devi cavare, non per pagare l'affitto, chi bisogna l'affitto? e che sul locale non faccio che aro li verrà affittato per scordare il raro misino proprio no e attrearsi tutto quel negozio che c'è negoziarete da fatti un salone mano a mano l'officina a bianco e un cortile a disposizione c'è. Cazzo lo faccio che paghi a due citti no. Ma è un dia che è andata a finire, io sinceramente non lo so dove sono andata a finire, va. Allora, presente ce l'hai, Calpur, dalla parte della strada del passaggio a livello per andare a Calia. Uno anda a pagare i biglietti, prima no, prima del passaggio a livello. C'è il bar Lo Specchio di fronte, ma il bar Lo Specchio mi sembra si chiama, che è anche ristorante, lì all'angolo, che tu entri quella via andando dritto, sulla sinistra c'è un armista che entra in un ghiottolino, che vede un arco. Vai allora dentro, forse nel deposito di Aruri, lì dentro. Ah, io lo so, allora, io ho capito, vabbè, sì, sì. Il marmista è già lo conoscevo a te, sì, ti ha dato il marmista, e ti dentro, ho capito dov'è. Ok, non lo sapevo, so che era già vado e per cui, però un negozio di alconce per tutta la trattatura nuova, già c'è ancora. Sì, però adesso lì dove c'è l'officina c'è anche il negozio, ci sono degli spogliatori, motozappa, tosa erba, pezzi di ricambio, tutto vendi a un prezzo, forbici, tutto va, ma è caro che la valla, che sul rocchetto della dove avvolgi il filo, in pratica 15 euro, non più bigli, cazzo costa 6 euro da pinto sulla prendanietta, che ha dato di rubiduccio. Ehi, un beccario, ma vabbù. Purtroppo, se ciò che sei, dici, fate riferimento, se ciò che sei, fate riferimento, continuare chi su basso è. Incontrare su basso, fate riferimento, perché non andrà bene così, non andrà bene, anche noi a noi solo, ma ne sono troppi in me di niente, A me non me ne ha pettito un cazzo, non ho preso il divino officina, fuori al divino cortile. Tutti gli altri mi hanno mai dato, cazzo, poi ci arrivi che era venuto in capo, ma c'ha di ragione, va, non ho preso. Cazzo, questa cosa è che io gli non la rego più un cazzo e non ci vado neanche più a comprarli l'ufficio o l'uso, nulla, vai. Cazzo, una ladrone, o se no l'agricola statalese un paio di anni fa l'avevo comprato il rocchetto dove avvolge il filo, col filo all'interno e tutto l'avevo pagato 7 euro, cazzo, devo proprio 15 euro, una madre che si venga, è ladro, non più barato delle leggi spugliatori, un 26, 240 euro, una bicicletta, ma lo penna. Ma te immagini, e per voi c'è la bricco, cazzo. 140 euro, cazzo, da 34, sì, la bricco, 134. Cazzo, 140, da 34, vi puoi immaginare, cazzo. E poi vi dirò più cari, però per dirti no, che rimane in attacco, io lo so che sono cari, un be. Sono cari e truffatori, tutti gli vie, buh. Che me l'hai fatto in giro, a chi sapeva, ma si va bene fra un'oretta, a chi dice a me l'imbeda io che andiamo prima al legno a guardare, ce ne hanno, lì che Gian Maria mi ha detto che il figlio ha comprato lì in offerta, 100 euro, un 35. Sono andato in una via, e gli ha ordinato, arrivano all'altra settimana, mi ha detto, infatti dice lei è il settimo che è venuto a chiedermi. Ma di cioè ma di ne avevamo pure priate, dobbiamo arrivare, chissà che da non ce ne arrivi giù. Alla prossima settimana arriva. Poi la giurito. Allora andiamo a Stamazzato, a Abrico, a vedere che lì ci sono. Sono andato lì e lui ce n'è uno da 149 là, e l'altro è 155, quello che ho visto io. No! Già andare me, cazzo, già sono belli massicci. Dopo ho visto gli altri 300 e più, capito? Però già li ho visti anche lì. Ah, ma li aspetta, il legno quando arrivano vado a vedere gli altri bussari. Ma un dia legno, viene il portatore. Sì, viene il portatore, al legno. Tu a partire del rifornitore scendendo da Viale Porto Torres, lì all'entrata, no? Invece di entrata a quel sapone, no? Lì il legno, e magari ci viene alla che deve entrare qui. Chi sono i bricquini? Chi sono i bricquini che si sentono così antichi? Ma c'è la bricco il legno, cosa dice? Comunque quello lì, adesso tu dalla rotazione andando verso Viale Porto Torres, prima arrivi a Rudabacchino sulla destra, quello lì. E prima mi è scritto bricco è scritto, ho capito, mi ho tanti che si bevi qui fuori, capito? Manno che sono così, è un cappellone manno me. Io lo so che ci sono andato anche altre volte, infatti dal piano di su vedono anche dei terzibri, prima vendiamo roba antiquari, mobili antichi, e anche c'era un piccolo spazio di detersivi, adesso vanno un po' più più manno, là è bisogno di detersivi, ciccari, pareti, roba di casa, capito? Bisogna andare, però poi non bisogna andare di tanto, sono rimasto semplice di loro spighi, c'è dei terzini, dunque non bisogna più andare. Era che da entra mi basso io il muro, mi domando se sono arrivato o no, se sono arrivato a t'avviso, capita, e vediamo un po', un macello veramente, Ma, bravo, dai. Lasciamo un attimo di bianco, se vuoi entrare a culo, grazie. Ehi, a parte chi vuole entrare. Ma, con anima, beh. Tutti in giro, so, e prendete una, grazie. Ehi, grazie a te, mi va bene, ascolto. Grazie, sarà, magari non mi ha legato ad entrare. Ah, allora quando la già attesa, giunto già Gianni che era quasi arrivata a travaglia a pararci fra un po' Carizzetti. Sì, ah, che storaggio, da qua dovete raccampare, No, io voglio mangiare, ero uscito a farmi un giretto, mi sono andato a... prima a Golforama sono andato. Era esempio una mensola, ma la mensola che piace a me non fila via, allora faccio fatto un giretto i chivi, dai chivi sono andato alla città mercata, alla Bricco, no? Faccio fatto un giro a Bricco, i chivi l'ha già avuta questa mensola, è già la giubilata, e infatti la gira piazzata, faccio fatto un giretto così, mio. Piano piano, un emberemme. A mezzodì ero in occhio, non sono andato da più. Invece ha detto, va, sì, è fatta, chissà se me l'immaginavo. Al limite è già tardi, ci vogliamo fare panini, faremo in campagna, chi si rifermo un fermo. Qui tra stasera, arriva a mezzo di qui, da mezzo di andare. E poi ci vogliamo fare, e cosa cazzo fai con chi chiede grazia? Cazzo! Beh, infatti, è così, come ti dà. ma si fa di venerdì, ma la già farà domani. A fare che cosetta ridda, capito? Però la maggior parte è tu fatto, però qualche cosa per sempre, capito? E per cui chiediamo un poco, dai, secondo la giornata che fa, se è bella giornata vi parlo, se no mi c'ho che in casa, capito? Anche ma c'è dritto, mi c'ho 30 occhi in casa, invece c'è in campagna. Speriamo che possa una dire, lo dico buono questa, ma che non piova. A chi domani deve fare per un compleanno, meni buggi lo può fare. In campagna, aspetta, pigliato giusto canto, fate un bravo qua. Cazzo, ma se mi fa lavare è un casino. Dopo il bruciato, se il pigliatore non mi voglia nemmeno buonia a tagliare l'erba, profilo male che poi ne va a pescare un bizzino, capito? Oh, ma infatti, no. Tante così non conviene a fare niente, io non finisco, può fare una cosa o fai l'altra, capito? E a tagliare, vuol dire, vai a tagliare la massa di, certo, domani si sveglia a vista ti rimane in fretta e ti accampa. Dai, ti racconto, c'è svegliatore parecchio, una sera, o da Mazzano e ce la fai sui risultati, capito? Allora, ma avanti di gatti stanno andando più, quando mi devo andare, oppure che intendo di riaccusarlo, io mi non vado alla Mariale, e adesso per la potenza pubblicità. Infatti, ma che dai che la rattevine che c'è. Il padre già era onesto a vino, ma basti sono imbassarditi che c'è niente, capito? Beh, per carità, che c'è? Pura, a faldinà, grazia, che c'è? Ma la macca può essere travagliato con il saga, ma non sono essi, quelli che travagliano sono essi, oggi sono tutti disonesti, chi vi gatta? A piglia paro con la niente, non è un frigio, grazie una bizza non già non passerà più. L'umacco è chiuso che non si una bizza che vi torna andai, hai compreso come te la cosa. E intanto si piglia il paro pure in caccia nera, ma come che ha imbagliato il capucca, palle giù. Se è saluni per cui io la so. E tutti che mi dicono in altro se c'è spogliatore sopra il magazzino come se la strabusca fino alla mia auto, se mi dicono mi dice se c'è spogliatore voi a me non danno che non mi danno se non mi dice se c'è spogliatore, è tutto che non ne ho carabinieri, che li chiamano i carabinieri, che li chiedono che possa fare c'è spogliatore a gestare, girano i denti un anno tutti i rossi che sono cogliuto o non mi danno i fatti o non fai la guida o non fai la guidacro. Io adesso voglio un vecchio spogliatore da ora, a me non me ne frega un cazzo. Ricco, e fai bene, ho registrato il break, e fai bene. Avanti break. Buonasera a tutti, Marco Conte da questa parte. Vi disturbo solo per un attimo. Oh, Gio Maria, ti volevo chiedere, siccome ho appena messo la batteria, il microfono preamplificato, mi puoi dire come va? È chiara, è forte o c'è qualche difetto? Buonasera Marco, no io ti sento perfettamente, la radio è chiara, è abbastanza buona anche, Radio 5, e per me vai benissimo Marco, vai grazie a dare un controllo anche tu. Papà, io adesso ti ho sentito bene, pulita come radio, sta uscendo bene, però passaggio a vedere più lunghetto. Allora, questo è il microfono Alan F10, regione a Francia. Alan F10 del mondo a Francia. Il microfono è una Intex Stanziate per il radio, è una Intex FM 548 16, sempre del anno 80. Ecco qua, vedi un po'. Stop. ascoltando benissimo, come segnale, come radio 65, io ti sento bene. Confermi Giovanni che adesso ha fatto il passaggio più lungo. E 7 a me arriva, a me arriva 7, grazie. E magari io, magari forse causato dall'antenna, sarebbe più basso, però a me arriva a 7. E così poi siamo anche più vicino. Va benissimo, Marco, va benissimo, perfetta la radio. Sei sempre con l'antenino, confermi? Questa radio qua io praticamente l'ho trovata lì, ed era 16 anni ferma, 16 anni, e ha funzionato senza battere il ciglio. Ha messa potenza, diciamo, intorno, e sembra che vada bene, dai, siamo contenti. Va benissimo, ma va benissimo. Sì, da 7 a 7 e mezzo, da 7 a 7 e mezzo qua. La radio è buonissima, va bene, beh, è stata usata bene quella radio e il microfono, per cui va benissimo, ottima radio. Va bene, va benissimo Marco, tutto lì. Ok, ma per un vostro tempo chiudo che vado, devo andare alle bancarelle al centro. Va. Vi saluto tutti e ci sentiamo nei prossimi. Ciao Giulio e ciao Gio Maria. E anche l'altro, io sono Gio Maria e l'altro è Graziano Guffo. Ok, ciao Marco, buona passeggiata, buona guardata sulle bancarelle allora, ciao. Ok, scusa, Graziano volevo dire, chissà perché mi è venuto in mente Giulio. Okay. Di nuovo buonasera a tutti e buon proseguimento. Ciao Marco, buon proseguimento di serata, buon divertimento. Ciao, alla prossima. Allora Graziano, ma dici bene chi faceva il stasera? Cosa? Mi sa tanto che ne arrivava, se pigiano il vento, Aspetta, ma speriamo che non più, via vai. Davvero. Speriamo che non più. Oh, a rimane pure ha detto che non più via e poi ci ha fatto Eva. Evidentemente si è pensato e ha fatto Eva. Speriamo che chiama Marco domani, non li porta, vai. Allora Marco, cresciamo un poco e fermo un po' di movimento, tutti i vi grazie, cosa vuoi fare? Tu domani sei spessa, meglio così grazie, tu è spessa e tutti in famiglia, va sempre bene. Guardate, io aprivo, ma allora così ne chiamo un po' di pisciamenti, ha una vita, roba la macchina. Tutto va giù questa buccia. Purtroppo è così, grazie. Non siamo più creaturi. Abbiamo l'età e per cui nascono i malanni. Capito? Cominciano i malanni. Chi c'è il salto, ti sa una cosa, figli di una cosa, passa l'altra una cosa e te ne fa venire un'altra. Così che i malanni vi sono sempre, diversamente e diversamente, grazie ai chitarri, vi sono sempre, vi sono sempre. Ho fatto una cosa, parlate, vi sono sempre diversamente. Però, vedi tu che la Bibbia, con filosofia c'è una fissa, invece vedi tu che vi pensa e aggrappa la sensazione sua, ma te. Però, come ti salicchia fa, non è tanto fatto, vedi tu che riesci, vedi tu che non riesci, lì c'è la pastella. Carità, tutti da fanculo che sto cazzo del mondo è Andrei. Che cazzo è lì che più che da quando lo vedremo più, stava la nacana, uno o l'altro, pucci. Ah, se arrivati non fate il beggio, grazie a, da se arrivati non fate il beggio. Troppo è così. hai visto, chi sa fare la baltrona, non hai visto? Pacchi per il magna, e hai visto i mangiare un me, e per cui ragazzi li può bucare di più. Allora, ragazzi, per fare un culo di più poco, non so neanche da voi, rimane niente per fare un culo, che da voi non può andare più nessuno. Io avrei diritto a chiamare, cazzo, se li tratta tutti così clienti, io andrei di veggia, cazzo, ma di nome vi siete dipendenti, a cosa esiste? Così l'hai detto, ce l'hai detto. Ehi, da giù ti l'hai fatto un casino, a volte, e mi ha trovato da me quando capite già per me nipoti, che ha sai roba, avevo da cazzo la giubba, per cama. Ma la cazzo di credibile nel barro con gambe. No, cosa ti credi che in macchina più biscia andare a tornare a vedere la faccia di un chiaro? Cazzo, ma... Ah, ma dico l'esempio, ti racconta, dico l'esempio di cui di grazia. Aspetta, ma ti fate pagare doppio. Dico quanto? Aspetta che sto chiamando i carabinieri, che te lo dico io, a ver se ti rivela, chi si dirà. Mi raccontino la roba. Cazzo, non solo, ma di pagare da chi ti vedrà più di un anno. Cazzo, l'ho anche compreso. E lo sabbiare più di già il busto. E forse l'hanno cavato a che pezzo, l'hanno imbucciato un altro, come te l'hai fatto a me. A me non me ne frega, mi dà di un vecchio spogliatore di garibbiati, non mi interessa, io l'unico altro vecchio spogliatore, non mi interessa, non mi muovo da chi via, chiamo i carabinieri, ti posso un casino a te abbinata pubblica, tu ti sai dubbia. E li voglio tutti e due buona conti, mi devi dire. Io vengo lui e voglio tutti e due acconti, buona. Io farò un anno e più e non me l'ha mai acconto. Anzi, non so più dove sarebbe fuori. E voglio tutti e due. E lui vengo e voglio tutti e due e sei spugliatori acconti. Così l'avevi detto. Ehi, glielo detto che io lunedì mattina voglio essere spugliatore. Questo... A costo di lui a costa è l'altro che va lì sopra che non avete audio, che ne manco quello già perché un cazzo la TV. Ma avete la data anche di un altro, cosa cazzo ne so? Chi ci lo già per di voi? Cazzo, è un casino, no? Ma io lunedì guarda che vengo e voglio c'è uno per l'altro, ma se lasciamo il telefono così ti interessa. Chi è a Londra non riceve la telefonata se batte che già, se sai dobbia. Avvisate per anch'io, ti voglio intendere, ma qui da giù. Cazzo vi lo dico io, che ragazzo so, Alice. E chi ti ha detto, chi ti dice, no, mi salto la giacca, salgo io e controllo io. E lo meglio che puoi fare, guarda che io lunedì voglio sia uno che l'altro, e a me non mi interessa un cazzo. Cazzo. Ehi, avvisami, grazie, che ti prendi un burro. Che ne dico tu io un burro. Ladri, cazzo, ma ladri mi fanno schifo e buro. Miserabili, per carità, ma penso di saietti viragifichi, penso pure i saietti che mi ha mangiato, hai fatto di capo, che non vuole guardare più viragifichi, so poco ma sicuro. Un chissà di armarmi lo posso controllare una persona esperta, burro, mi dice, si fa il bosso per timone, che mi si fa imparare per timone, burro, a chi se non mi si fa imparare per timone, nuovi, perché usando, so capo di due burro, chi si non ha ricchi, burro, il bosso la massa controlla miro, io, da una persona esperta. Cazzo, cazzo, mi sei di della Pugani, la marmita, cazzo, se non l'hai manco, ha mai dato cosa cazzo, ma cosa lo fa, ma hai detto solo, ma buono in moto, abbatte, l'ha detto sì, abbatte, buono in moto e funziona, su solo che da per poco rimane incontrato e rallenta i giri. All'erba che sa più Filippini non riparte manco rigori rigori. Scusa, e cosa vedo qui? Un'ora fa fa un metro quadro di taglia all'erba. Ma ti fa che cosa, no? Questa volta è cosa cazzo sarà? Niente. Per voi. Oh, yeah, pascari taglia. Oh, aspetta, guarda che se ne va qui. Un attimo che ha mai dura, tia. Ah, oh, donna Stelli, no, ma riapeva, Aspetta, mi pare che c'è un tipo di ma sa, che chiata, Se sta saluti, ti dico fra mezz'ora è già più bene, sì, no, che mi ha già avuto. La sennella, salarina, un'aria, nita, nita, per un venticello, quando è così, e arrivenireva. Ora me lo gioco a memoria. Ehi, anche se ne fa poco l'imbarcata che fa. Ah, poi gli sportellone è dato a Bariso, grazie a Viro. A chi li cudi agli sportelloni, li cudi, no? La vetrata, cade come c'ha più qui, Serena non l'ho chiuso, però cade come c'ha a sepolti, allora lo metto, mi hanno preso la pompata di me, che la chiude la vetrata e allora la abbasso, se no me ne entra lei, e lascio le vetrate aperte, no, sopra, ma le vetrate già non le entro. È facile. Oh, e beh, cade forse, ma poi sento se è ambizio, ma cade serena, io muro, e non cade rigu, i vaccone sono ambizi, siamo qualche da pacco la bici lui, già c'ho la zanzariera, e la zapparella a mezz'aia, sì, del cazzo, e per cui quando è serena leva non entra. Da Berito specialmente, magari ad Anzi sì, ad Anzi mentre la lira, Ilia, ad Anzi ventra, ma è sempre sarà da fare, ma io che se fa beccia, e per cui se ci arriva va, noi siamo qualcosa da, ma con la bestia, grazie. Ehi, anche noi camera la valetta, no, camera la valetta, stai già becco più di una ghetta di più. Beh, la fuggibile quasi abbassata, quasi del tutto, però già si vede, compri, è la zanzariera abbassata. No, il vaccone è un buco, non è chiuso, perché io ho anche la controfinestra è aperta, la zanzariera è abbassata. Poi il vaccone di dentro è un buco, compri, l'aria entra, però... Ma dai di chiamare per la prescrizione quando me ne sono suscitato, alle 7. Infatti, la già passata qui ve la trascritto. Vabbè, no, è sabato, no, è bene, è da patria. Però qualcuno è abito sempre, capito? C'era da fare la giornata un po' abbassata, più di mezz'aia, per cui... il vaccone si è pambito, fa caldo, per cui vado a mandarazzo a voi, abbiamo tutto altro a chi, no, si muori non da un caldo. Però per più fresco i loghi che la camera nostra, la bruppia che ha dall'altra si gioca tutta la divisione, il ricchio, per qua dobbiamo dire si buccia, mentre si abbassa la macchina, l'usore è il trasloro lo mangiava, non si deve perché l'ombra è per più fresco la notte, capito? Vabbè, adesso in Cuba, no? Come te no, se in cucina e io che la vetrata non mi bussa, ma cosa me la giubussa la testa? Ma chi ci me la giubussa? Però una testa baciata è di Zanzarieri, se li va con la me che è stata delle Zanzarieri, che ha seccato, che passa questa rete, ha messo 30, compreso. Perché la parte la resta, da voi aveva pure un ritardo vaccone che mangio molto, già l'hai visto. Tu apri pure e tira l'aria, più aria e non più soffri. E tu qua che perché caso già si sta preso. E attimo che arriva lì, io cacca il buccia come il trelli, a cui ci sono buffati, io dico, buffo, quindi a tirare un volare e dai, guardare dai nostri. E di fate, grazie, sì. Per fa, per fa. Ma, di portarci lo portiamo male, va. Ah, Marco, ti lascia mangiare in pace, grazie. Tante, a roba ruccia le fa pura. La veranda, non sapete la veranda? Ma ne abbiamo cavatata, la dovevamo fare nuova, tutta, l'abbiamo fatto pure un pilastro, lasciato. Un pilastro, quello là c'è lasciato, dall'altra parte ho salito il muro e il pilastro lasciato. E dall'altra parte il pilastro l'ho buttato il tutto per separare la veranda dal muro della casa di mia cognata, ho sollevato il muro. Gli devo dare i pendenzi e pulire i legni. E poi sopra lo devo fare perlinato e sopra perlinato ci metto il catrame. E già va bene, vai. Già va bene, allora lasci il catrame tutto quanto, non rimetti altra roba sopra, no? Sì, c'ho le tegole, c'ho in campagna, prima ve la via davanti, a catastate, ghivi, quattro melami, e la porta di paraghivi che andavano fatto in sabbia di... la mamma di galera, di là, siamo in nebuti. Siamo morti tutti i gatti, la passa male, siamo passati tutta l'aria della casa, il piazzaletto che abbiamo fatto da lì, e sono tutti chi va attaccati. Uno che da poi prima la lanzi, quando mi erano bei vicini, si ne andati a raggiungare, che mi darete, e mi ne rampavano una luce, una domanda e mi ne rifacciava. E da poi era il più pericoloso, chi vi riverri, si sono arrugginiti, rubrici. E allora ce l'avevamo trapassata da Vito, le ho fatte più basse le cazzate. E poi sopra ci metto quelle. Ehi, va bene, va benissimo. Va benissimo allora. E allora, domani, grande festa. Vedo così, grazie. Dice di tutti domani, così che tutti, famiglia, va bene. Mi dice che da, ma ti ho fatto bruciare tre bancone, mani e anni, a chi ci non lo ammazzano che ci ho bisogno in campo. Da, da un marito di me ne butti, che sei stata le butti, chi fa la campagna e chi fa la butti arrivava. E se la parate la sua me ne butti con un furgone, a tre, di 10 banchi, e un altro tavolino, fatto meglio di siepi che di mamma. E insomma, gli avvenne il lungo, sì. E mi pare che un 40 di così 40 bassoni in tutto il giorno. Sono pochi, no? Sono pochi, grazie. Gli avvenne pure che mangiamo, ma gli avvenne sarà senz'altro per cui... già va bene, grazie. A voi, bisogna di bossetti pieni, gli appronti. Poi dire, bene, un frigorifero normale, con un frigo e un frigo. Da poi, bene, l'altro frigorifero, chi sotto è tutta carattere pieno romatesi, sopra pieno romatesi, di bibiti, di rabbino, aranciate, limonate, e tutto già pieno, già pronto, di tutto. Le banche sono già predisposte, e la pareccia è buona. E l'appetito vivo. Allora, quello non so se... se la carri si la tenni che su Valentino che va a Rosello la bisferia, mi pare la regata i bucchitti. Ah, c'è già l'inforlusia, esce più bene di questi cotti, è già un'altra cosa, dai. Anche quando mi sono curiosato io l'avevo negozio, anche mi la fare. E la bisteria. Poi allora di pranzo, prima di pranzo mi aveva parato in macchina, tutti questi tappati lei con questo bambino stagnolo dentro un contenitore che rimane a caldo, capito? E c'era a due, e beh, se no che cazzo di figure per fare, con tutta la gente che fa, tanto siamo di Marco, gli avevamo in campagna a Russo, ma non dobbiamo fare niente, no? No, come ci fai? Allora vivo, io vivo 4-5 bracieri, vivo 7 attesi, grazie a... E 4 persone, 7 visti che vivono. No, sa, per tutto quando mi gioco con io faccio la fotografia. Cazzo, mi sono 6 femmine, tutti panniti, a si vedono i gambari, i pesci, con frutti di mare, gli antipasti, tutta l'insalata, salsiccia, d'acio, tutta questa roba di chi l'avevamo preparata, chi. E faccio la fotografia quando mi sono curiosa che il ricevimento l'avevamo fatto in campagna. Cazzo per non vedere niente quando mi sono curiosa. Cazzo, se ne è andato lì domani in breaco per la palla. Tutta la notte su venne cazzenne e vivenne. Chi ti chiama di Rosi? A bello, sì. Già Maria, ci ha fatto tutto gli altri mari, tutta di campani. Però controlla di lui, a chi domani si cacchi goccia in più, si rifiuti, da poi lo prendi più, E già marito, ma io mi faccio questa bandata, pure mio, striscio, striscio! Anche, so che va, grazie, uia, arrocchiete, fai di me, no, mi domani papà sta scusata in alta la banca come si fa di giurito e comincia a battere. Ma per dire che fai, chi fa di come ti fai tu che ha già battato a Morano. Allora, Giomari, aspetta domani mi fa battere, posso scritti vostro, con il mio. Da voi c'è sulla vita del papperesso graziano. L'altra volta mi nipoti la pulia e mi sa che è un po' robustella. C'è stata la prima cazzata che si batte. Cazzo la truccato è che è uscita e fa la dura. Da voi l'altra volta vera. Due ragazze che cantano, vanno, la paghi, vengono, mangiano, però cantano, però le paghi. Non me l'ha messo quanto l'aveva dato, se si fatta io mi va. E cantano, fate la musica, sono bravi, due ragazze. Cazzo una ebriaca, se ci dai paratura dalla banda, cazzo ci ha fratturato, rubetti. Ah, un karaoke è finito allora domani, così è? Chi sta a fare un karaoke con queste due ragazze? Sono tutto corrente, però sono bravo a cantare. Si chiamano a battigimi, a crismi, pure al matrimonio, in chiesa, a cantare. Ah, ecco. Ok. Io poi ho una nipote che fanno così, il karaoke, e fanno nelle sale, capito, a fare queste serate, capito? Anche nelle pizzerie fanno il sabato sera e la domenica, capito? E vanno a parecchi posti, Lo so, più vai niente, cosa da giudizio, è grossa burro, Si sta a giudizio che l'aria è a Eva. Se ti ho venduto vuol dire che comincia a morire occhi. E che per prendere forse, no? Come segni? Se non ti sei negita, cazzo devi vedere con un calice, la scorsa di limone, a campare di un'imbriaghi, cazzo si dà paratura, e dai mi scroppo. Certo, noi non capito, così che bisogna approfittarne quando una persona si sente bene, tanto non è bene male, per cui è meglio che si divertono e fanno bene, dai. Ehi, a Giomari, e allora? Già non credo gli altri di vicino, ma domani ti capo fusori, speriamo. A che no, Giomari, ma ne è un 30. È bello, una casuzione così, Pacchia romatti, chi? Pacchia a Pira Mazzara con San Benedetto. A macchi chi? Pacchia di Trento, gli avvicendi per cui va bene ugualmente, capito? Presto ci fa bene, ma no, no, non ha messo acqua domani, dici che fa bene da lì, speriamo bene. Sì, no, domani a fare il sole, ma non parlano con veni, no, domani. Cata voi, non abbiamo fatto ottava, oi. A ristorario, domani, si mi deve andare, invece di questa maniera. Se uno va a che pranzo, se uno va a si può rimanere ancora. Chi su avanza si mangia la sera, con prezzo. E allo grido, infatti. Mica ti vai da un panno, è pagata, per cui bisogna consumarle, basta, e fate bene, fate bene, divertite, a faccia che ha caduto fuoco, ok, ru. Questo, una volta l'abbiamo fatto lì, a Ottava, da Danilo, questo è il salario da Boggia. Una sala ci ha affittato, però chi ce l'ha dove mi ci avrebbe andato a segnare, chi è che doveva pulire i taurini per la pizzeria, che non conviene. No, infatti, ma noi faremo due compleanni, mi pare che la saghita è. Due compleanno, so. Così che uno la fa da Rossi e uno la fa di Sassari, e per cui mi pare la fa in campagna da campagna verde, Mattissimo, ma è l'altra la fa di Mazzala, ma che è di Logo Nonnami, e la fa in una sala a Rossi, e fa dei caraocchi di cui marito e moglie e figliuoli, capito? Anche i due figliori cantano, pure canta pure la mamma, capito? Pure il marito, tutti e quattro cantano, capito? Per cui ci va a divertirsi, dai. Ehi, ma da noi bisogna pure l'attimo e i nipoti che sono un compenso, cantano, suonano e andano in giro ma stessi, si zeppata, si chiamano, sono già pulisti, si bisogna invitati. Beh, si bisogna chiedere, e due come ci fate? Vabbè, un po' fa di lui, un po' fa di là, ma l'importante è che le cose vanno tutto bene e vi divertite, capito? Qui c'è la cosa più importante. La stavolta per amichissi già per me ne volte, ma te sì, chi su ricatto ha cantato un paio di canzoni, Buruetto, a Sarisa. Ah, ecco. Andate, grazie, andate. Boh, va bene, grazie, vai. Mi immobili bene, che c'è anche a dire a chi mi piace mai, pure i giappi, sempre bussati, no. Per cui ne approfitto e chiudo, eventualmente domani sei impegnato, ma meglio che vi divertite, vi divertite. Già ci sentiamo eventualmente, grazie, buon proseguimento. A domani, vado un po' domani, ok, grazie, salute in casa. Ciao Giovanni, buona carica, saluti in casa, ciao, anche da parte di Rusi. Grazie, altrettanto ricambiato dalla mia, ciao. Ciao.